La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Grazie per l'ascolto in diretta in podcast, come sempre, qui della versione di Oscar, quindi da Oscar Giannino. E il studio da Milano, che come sempre invece gli assistenti regia, i registi mettono a temperatura tropicale, però è fatto evidentemente per far dimagrire i conduttori, in attesa che anche il gruppo ci faccia dimagrire. Comunque sono attese oggi notizie sull'aumento di capitale, come potete immaginare qui si vaga tra il terrore, la preoccupazione e la rassegnazione, perché poi ovviamente non dipende da noi, ma comunque grazie sempre per l'ascolto. Di che cosa parliamo oggi? Bene, siccome sono settimane, anche stamattina avete ascoltato, ci sono Alessandro Milan, torniamo tutti i giorni sulle inchieste che sono aperte per il fenomeno dei profughi, la Libia, l'ONG eccetera eccetera. Uno dei punti ricorrenti che viene buttato al centro di questo dibattito è sempre: bisognerebbe fare di più per i programmi di aiuto nei paesi che generano i flussi, bisognerebbe fare di più. Questo appello, che è sulla bocca di molti talvolta un semplice mantra, un ritornello per allontanare il problema, per così dire, in realtà è uno dei problemi centrali da decenni, no? Di come sostenere lo sviluppo delle aree che ne hanno meno, cioè che hanno tassi di miglioramento della propria situazione economica non comparabili ai nostri, anche se uno va a vedere i dati dei decenni, molti passi in avanti sono stati fatti. Quando riferisco i dati della globalizzazione, che molti considerano negativa nel mondo, e si scopre che sia il reddito medio pro capite globale sia l'abbattimento dell'indice di Gini, se usiamo uno degli indici di distribuzione del reddito, per i paesi che eravamo abituati 30 anni fa, 20 anni fa a considerare terzo e quarto mondo, sono stati molto significativi. Detto questo, però, se guardiamo ancora alla condizione economica di bassissimo benessere, di mortalità per malattie infantili eccetera eccetera, di aree del mondo ben precise ma molto vaste, c'è ancora moltissimo da fare. Allora, noi parliamo oggi di un tema che non è solo la cooperazione in termini di aiuti pubblici, A, B, e non è solo la cooperazione fatta dagli specialisti ONG del terzo settore, che da sempre sono attivi sul fronte della cooperazione economica allo sviluppo e oltre che umanitaria, sanitaria, eccetera, verso le aree meno sviluppate del nostro paese. Perché c'è una grande novità che vorremmo spiegarvi, perché c'è un bando della cooperazione italiana nuovo, perché ha delle caratteristiche totalmente innovative, cioè si rivolge esattamente, cari manager e imprenditori in ascolto, al mondo delle imprese private, perché da imprese private, non che si improvvisino cooperatori e ONG, valutino però la possibilità di investire con un proprio ritorno, aumentando le risorse complessive, e quindi ottenendo effetti nei paesi in cui ci si prefigge di operare, ma ottenendone anche per sé come imprese. Quindi è un bando completamente nuovo come impostazione. Io sono molto convinto che strumenti come questi, di una grande alleanza pubblico-privato, dovrebbero essere da molto tempo la via da percorrere. Ciò malgrado, meglio tardi che mai, e il problema è adesso però di predicare questo nuovo Vangelo, cioè di spiegarlo alle imprese in maniera tale che il più possibile di esse valutino se partecipare e partecipino davvero, perché è un meccanismo autosostenibile quello di accrescere al monte risorse, ciascuno facendo meglio così il proprio mestiere. Allora, per parlarne, oltre a un ospite che ci aggiunge nella seconda parte della trasmissione, c'è l'amministratore delegato di un'impresa che ha già deciso di intraprendere questa strada, ma per spiegare meglio di che si tratta abbiamo con noi un protagonista anche della stesura, dell'elaborazione, della riflessione che ha portato a questo nuovo bando, perché è il segretario generale dell'ABSI. L'ABSI è una ONG che oramai ha una storia pluridecennale, è fondata all'inizio degli anni 70, opera in 30 paesi, ha uno staff di 1200 persone, oltre 100 i maggiori progetti di cooperazione allo sviluppo che segue e finalizza negli anni, ed è con noi appunto il segretario generale Gianpaolo Silvestri, che è anche il vice coordinatore del gruppo di lavoro al Consiglio Nazionale della Farnesina, che presso il Ministero degli Esteri ha immaginato, ha dibattuto e poi ha letteralmente scritto i criteri di questo nuovo bando. Grazie di essere con noi, Giampaolo. Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori. Subito con lei, mentre io davo il tu, ha ragione, mi attengo anch'io a lei. Vogliamo spiegare un pochino bene a chi ci ascolta le novità, come nasce questa cosa e come concretamente si può partecipare, a chi è rivolto? Sì, dunque, prima di tutto questo nasce dalla nuova legge sulla cooperazione, la legge 125 del 2014, che dice che le imprese, il settore privato, sono soggetto di cooperazione. Questo era già, come dire, patrimonio comune in molti paesi europei, ora l'Italia lo ha recepito. E questo è fondamentale perché se vogliamo seguire quello che lei diceva prima, la globalizzazione ha un effetto positivo nel lungo periodo. Il numero delle persone oggi che vive con meno di un dollaro al giorno, cioè in povertà assoluta, è in costante diminuzione. Ma se noi vogliamo dare un contributo a questi paesi, non possiamo non tener conto del ruolo delle imprese, perché sono le imprese che creano sviluppo. E allora la legge dice che le imprese sono soggetto di cooperazione. Questo vuol dire che un'impresa che vuole andare in un paese dell'Africa, del Medio Oriente, dell'Asia, dell'America Latina, a fare un investimento, profit, business, stiamo parlando, quindi con un ritorno. Ma se fa un investimento di lungo periodo, questa è una condizione fondamentale, certo, la sostenibilità di lungo periodo, non può essere un mordi e fuggi, e che ha un impatto, non solo un impatto in termini di posti di lavoro, che è evidente, se fa una fabbrica, se fa un impianto di trasformazione agroalimentare, è chiaro, c'è un impatto in termini di occupazione, ma un impatto sull'ambiente, un impatto sociale, crea delle condizioni positive. Questo può essere finanziato con risorse a dono, che poi si possono sposare anche a delle risorse a prestito, perché la legge dice anche che in Italia la Cassa Depositi e Prestiti può fare da banca di sviluppo, però diciamo questo è un passaggio successivo. Però il piano iniziale, l'investimento iniziale può essere, chiaramente adesso le risorse, questo è un bando pilota, sono all'inizio, siamo all'inizio del processo, può essere finanziato con risorse a dono dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Le condizioni sono un investimento di lungo periodo, un impatto positivo sul contesto, sul territorio, dal punto di vista ambientale, sociale, economico, una partnership con evidentemente soggetti profit locali, evidentemente per far crescere anche un'imprenditoria locale, e con soggetti no profit internazionali locali che possono favorire i legami col territorio, che possono aiutare questo impatto positivo. Però l'aspetto fondamentale è che deve essere un investimento di business, cioè una produzione, che deve avere un ritorno economico, che non è... Qua siamo oltre la charity e siamo oltre anche il corporate social responsibility. Esatto. Qua siamo in quello che si potrebbe chiamare un business inclusivo, se vogliamo usare una parola per capirci. Cioè un business, quindi un business, che tiene dentro degli aspetti sociali, economici che hanno un di più di impatto positivo sulle popolazioni locali. Io credo che questa sia una strada molto importante, perché tiene dentro l'aspetto del settore privato, delle imprese, che è da loro che dobbiamo aspettarci lo sviluppo. Non possiamo aspettarcelo dalle ONG o dagli stati. Certo. Le ONG e gli stati possono creare le condizioni, possono dare le risorse, possono favorire i rapporti col territorio, possono svolgere un'opera di accompagnamento delle persone. Ma il vero sviluppo viene dal business, viene dalla possibilità di creare lavoro, dalla possibilità di creare situazioni di ricchezza economica, viene da loro. Questo io penso sia per l'Italia un fatto importante. Oggi questa possibilità non è conosciuta dalle imprese, perché è una cosa nuova, e soprattutto c'è un forte, immaginabile anche, come dire, ritrosia a andare in questi paesi, perché qua stiamo parlando non solo dell'Africa facile, del Mediterraneo, adesso anche se non è più facile, cioè della Tunisia, dell'Egitto, cioè dei paesi che sono, ma stiamo parlando dell'Africa subsahariana, dove è vero che ci sono molti paesi in situazioni di guerra, di difficoltà, ma ci sono anche dei paesi che sono in grande fase di sviluppo economico, il Mozambico, l'Uganda, il Ruanda, il Kenya, la Costa d'Avorio, paesi in cui ci sono delle condizioni politiche abbastanza stabili e che hanno grandi potenzialità e in cui è possibile investire. È chiaro che ci vuole anche un passaggio culturale, oserei dire, da alcuni punti di vista per le imprese, cioè di aprirsi un po' al mondo. Capisco, non è semplice, perché a dire a un imprenditore... Cioè no, non è semplice, ma al contempo però i segnali dell'internazionalizzazione Malgrado questi anni di crisi, anzi accelerati da questi anni di crisi, che noi abbiamo, cioè, sappiamo più o meno tutto delle 216.000 imprese, perché tanti sono che sono quelle internazionalizzate in tre livelli diversi, gradini, così sono classificate dall'Istat. Se volete approfondire, c'è il rapporto competitività internazionale dell'Istat che è uscito un mese e mezzo fa, e trovate 60 pagine di descrizione precisa dei sottocluster di queste 216.000. Quindi queste 216.000, che poi sono il cuore pulsante che ci hanno fatto reggere nella sfittica crescita italiana, sono quelle con il maggior ritorno al capitale investito, sono quelle con crescita di occupazione e a maggior capitale umano impiegato in Italia. Quindi sono, insomma, la cosa, quindi ci sono. Il punto è che già se quelle 216.000 che sono già impegnate, sia pure su tre livelli diversi, sull'internazionalizzazione, identificassero questa possibilità, beh, sarebbe già una cosa straordinaria. Ma se uno che ci ascolta volesse, un manager che ci ascolta, un imprenditore che ci ascolta, volesse capire meglio, dov'è che può andare per capire com'è il bando tecnicamente, quali sono le caratteristiche per partecipare? Allora, domani, ad esempio, in Assolombarda ci sarà un incontro organizzato dalla Assolombarda, quindi dalla Confindustria, dall'Agenzia Italiana della Cooperazione, in cui il bando verrà spiegato, diciamo, nelle grandi linee. E poi verrà pubblicato a breve sul sito dell'Agenzia Italiana di Cooperazione, ma diciamo questo roadshow per spiegare, per avvicinare le imprese, perché appunto le imprese non conoscono, continuerà in altre città, sarà a Bari, a Bologna, a Roma, quindi c'è un tentativo. Anche ma ci sono dei limiti individuati nel bando per settori, taglia dell'investimento? Allora, al momento la situazione è qua, al momento il bando stanzia 5 milioni di euro, quindi per progetti pilota. È immaginabile che verranno finanziati una decina di progetti, quindi diciamo un contributo di circa 500.000 euro, possiamo stimarlo, e questo, diciamo, sono gli elementi essenziali. I settori, chiaramente tutti i settori, però diciamo così, la filiera agroalimentare e diciamo la filiera energetica saranno un po' prioritari, perché questi due aspetti sono abbastanza importanti in questi paesi a vocazione agricola, in cui la trasformazione agricola dà grandi opportunità dei prodotti agricoli nella filiera, diciamo così, agroalimentare, e l'energia, perché questi paesi comunque hanno grandi potenzialità. Acqua, immagino, certo, anche, chiaro, eccetera. Diciamo, queste sono un po' le due filiere fondamentali, anche se però di per sé non saranno precluse le altre. Se posso aggiungere a quello che diceva prima, il bando vuole andare, evidentemente, date anche le dimensioni, soprattutto sul tipo di imprese che citava lei, perché oggi le grandi multinazionali italiane, l'ENI, l'ENEL, fanno già questo tipo di intervento. Dubbio, non e dubbio. Non hanno bisogno della risorsa pubblica. Cioè, il bando non è rivolto a... Perché non c'è hanno, dubbio. Questo è un call, diciamo, alla vastissima platea delle internazionalizzate medie, non veri gruppi multinazionali, di chi sta in una global value chain come fornitore, magari, eccetera, eccetera, ma che in questi anni ha rafforzato la sua ascesa nella catena del valore aggiunto, tanto da poter immaginare di servire altri mercati che sono in fortissimo sviluppo, a quel punto capitalizzando molto ciò che viene riconosciuto nella sua global value chain, ma viene anche un po' compresso, perché naturalmente siamo in quel meccanismo di competizione di forsennato. Quindi, diciamo, stiamo parlando di un interesse che può essere molto molto molto molto forte. Ci abbiamo un minuto adesso di informazione di servizio sul traffico e poi torniamo. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati dallo studio Milano di Radio 24 a parlare di questo nuovo bando innovativo che per la cooperazione si rivolge però alle imprese private, dicendo investite come impresa, con un ritorno di imprese, un partner nel paese in cui volete andare, un rapporto di cooperazione con chi può essere da guida per investimenti, ma anche con un'ottica di cooperazione allo sviluppo in quel paese. A quel punto avete anche accesso a finanziamenti e facilitazioni pubbliche, ma facendo impresa a fianco ai due soggetti, quello pubblico e le ONG, che sono i due tradizionali, diciamo così, partner e attori della cooperazione allo sviluppo. Quindi è una richiesta alle imprese e un bando pilota. Ovviamente più sono le richieste e i progetti che le imprese partecipano al bando, più diventa una scelta poi che si svilupperà strategicamente come un pilastro aggiuntivo, io mi auguro sempre più fondamentale, per crescere in quei mercati, per creare le condizioni sociali di un eco ambiente più favorevole alla crescita in quelle aree, ma per fare il proprio mestiere di impresa. imprenditori, con un rapporto di grande alleanza con il pubblico e con il terzo settore. A me sembra che dovrebbe essere la chiave per cui molte imprese che ci ascoltano dovrebbero avere la curiosità di andare a capire come funziona questo bando e immaginare in quali paesi, per la propria specifica specializzazione produttiva, magari immaginare un investimento. Per capirlo ancora meglio, è sempre qui con noi in studio Giampaolo Silvestri, che è il segretario generale di AFSI ed è il vice coordinatore del gruppo di lavoro al Consiglio Nazionale della Cooperazione alla Farnesina, a cui si deve questo bando. Abbiamo aggiunto un altro ospite, appunto parliamo di imprese e l'amministratore delegato di una società si occupa di efficienza energetica, questa società, la società si chiama Cloros e l'amministratore delegato è Riccardo Cagliari. Grazie di essere con noi, Riccardo. Buongiorno, grazie a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dove lo fate e perché avete deciso di farlo? Allora, il primo progetto nasce nel 2013, quindi siamo un po' precursori rispetto a questo bando del rapporto con le imprese private e le ONG. Lo facciamo in Mozambico, a Maputo, quindi nella capitale del Mozambico, che è Maputo. Decidiamo di farlo insieme ad AFSI, che è una realtà molto radicata in questo paese, e inizia quindi il nostro rapporto di collaborazione con una ONG per sviluppare un progetto in due quartieri di Maputo, un progetto di efficienza energetica, quindi che prevede la distribuzione di piani di cottura efficiente per le famiglie, e questo ci permette di fare business. Quindi noi ma voi avevate un'esperienza precedente di quel paese o quando avete maturato l'idea di... No, ecco, no. Assolutamente no, una piccola azienda, una startup nata nel 2009 che nel 2013 decide di investire dei capitali propri per fare questo progetto, quindi prima esperienza di progetto all'estero da parte nostra, perché non siamo un'azienda che opera in altri paesi. Né quindi avevate rapporti con il mondo istituzionale di quel paese, con l'autorità di quel paese? Assolutamente no, okay. Assolutamente no. Decidiamo in maniera, diciamo, dopo analisi delle possibilità, di appoggiarci a chi in quei paesi è fortemente radicato, quindi che conosce le istituzioni, conosce la realtà, conosce le persone ed è riconosciuto da parte come della parte, locale, certo, come un player importante. Questa lo sottolineo, glielo ho fatto dire, perché questo è il punto da considerare per chi ci ascolta e dice no, ma io magari sulla carta posso pensare a quel paese, però non ne so niente, non ho le chiavi istituzionali per aprire. Questa è l'importanza infatti di scegliere e lavorare insieme a un'organizzazione, a una ONG che in quel paese è riconosciuto perché attiva da anni e quindi è riconosciuta dalle istituzioni, perché questa è una delle maniere perché il place to be diventa un place to be che sia anche tuo grazie al partner che ti scegli. Assolutamente, questo è fondamentale. È impensabile da parte di un'azienda come la nostra andare in un paese come per esempio l'Africa, ma anche altri, e riuscire a fare progetti senza un supporto operativo e ma anche relazionale, esatto, con le istituzioni, sì, ovvio, da parte di una ONG. Esperienza, come si è realizzato? Se uno dovesse tirare il bilancio che avete fatto di questi anni, visto che avete cominciato nel 2013, di che tipo è? Si è realizzato più delle vostre aspettative, più problematico di quanto immaginasse, come, che dici? Dopo un primo periodo di sconforto, perché l'inizio di ogni progetto è sempre più difficile, quindi in cui abbiamo dovuto capire sia come lavorare con la ONG, perché un'azienda privata piccola che collabora con una ONG importante comunque necessita di tarare il messaggio e il dialogo con il proprio partner. E anche sul paese, perché i problemi pratici spicci sono spesso dietro l'angolo, no? Ma dopo un inizio appunto intenso, ora siamo molto contenti, quindi il feedback è assolutamente positivo. Sono progetti ovviamente che richiedono concentrazione, impegno e attenzione ai minimi particolari, ma grazie, ripeto, a queste partnership è possibile definire il piano d'azione in maniera efficace senza incorrere in rischi particolari. Quindi insomma, a distanza di 5 anni, di 4 anni, il progetto durerà 7 anni in tutto, quindi un periodo di medio e lungo termine, siamo assolutamente contenti di come sta andando. Ma dica la verità, nella compagine dei soci inizialmente, quando avete avuto l'idea, siccome ci sarà stato chi non era molto convinto, alla fine vi siete convinti all'inizio, prima di sperimentare sul campo, adesso insomma le presento un bilancio che con qualche problematicità iniziale però è positivo, ma all'inizio quando uno dice ma insomma siamo piccoli, siamo nati da poco, perché... alla fine che cos'è che ha fatto la differenza per scegliere? Il fatto che siete inveterati peccatori e voi volete anche salvare un po' l'anima, o il fatto che eravate, vi siete convinti a tavolino del fatto che ma no, ci guadagniamo come impresa? Entrambe le cose, ovvero sia la parte economica, siete inveterati peccatori, la parte no di innovazione. Per noi questa innovazione è innovazione. Siamo una delle prime aziende in Italia private piccole che ha investito capitale proprio in questo progetto, okay? Quindi conoscendo bene il business, quindi avendo una chiara percezione di quelli che sarebbero i ritorni di questo nostro investimento, abbiamo deciso di farlo con un modello innovativo, per noi innovativo quantomeno, per il nostro taglio di azienda innovativo, ovvero in collaborazione stretta con un'organizzazione non governativa. Ma la lezione imparata, che naturalmente poi è diversa da contesto a contesto, da paese a paese, ma quella per il momento che avete incamerato con la vostra esperienza lì, vi indurrebbe nel tempo a replicarla altrove oppure no? Assolutamente sì, lo abbiamo anche replicato altrove, dopo sempre in paesi dell'Africa, e ora ci stiamo trovando nelle condizioni che alcuni nostri clienti ci chiedono di aiutarli a implementare un progetto, quindi è un'esperienza pilota anche la vostra. A noi. Ma che sta servendo anche ai nostri clienti per sviluppare dei progetti propri. Allora, io intanto la ringrazio per l'impresa. Dove è nata? Voi di dove siete? A Verona. A Verona. E la startup era fatta da età medie? Gli startup? E giovanissimi, perché nel 2009 avevamo 29 anni. 29 anni, quindi bravi, bravi. Difficoltà a iniziare a reperire capitale? Siamo partiti con poco e siamo cresciuti con calma, quindi diciamo siamo partiti con risorse proprie, veramente poche, ma abbiamo beccato delle attività che ci hanno permesso di essere oggi una realtà ben più strutturata. Va bene, io intanto grazie della testimonianza, auguri e bravi bravissimi per quello che mi riguarda, cioè il mio auspicio è che tanti capiscano che l'esperienza della Cloros in Mozambico è un'esperienza replicabile in migliaia di casi, se questo esperimento pilota funziona e va a regime, migliaia di casi nel mondo, o sono troppo ottimista secondo Giampaolo Silvestri? Ma io dico che le possibilità ci sono e noi dobbiamo lavorare in questa prospettiva, cioè partendo da dei casi pilota di successo come questo, ma ce ne sono anche altri, dobbiamo arrivare ad un numero significativo. Io penso che in Italia c'è un panorama di imprese come queste, start-up, piccole imprese che hanno voglia. Ma in settori ad alta intensità di capitale umano, fortissima crescita tecnologica, quindi secondo me è proprio questa la cosa, l'interlocutore essenziale dovrebbe essere loro. Questo sì, però il problema è che bisogna portare le imprese a conoscere questa possibilità e soprattutto a far vedere che è possibile, perché un imprenditore secondo me si muove se vede, sì, certo. se vede qualcosa che è successo positivo. L'imprenditore è un sognatore che vede, applica al tempo con una risorsa limitata la moltiplicazione degli input iniziali, però deve credere alla concreta possibilità che questa difficile scommessa sul tempo, che è quello che è limitato molto più delle risorse finanziarie, possa tradursi in un risultato concreto. Insomma, noi in piccolo abbiamo tentato di svegliarvi, imprenditori e manager, andate a vedervi sto bando perché vi serve a crescere nel mondo e risolve un problema anche in quella parte del mondo. Grazie a tutti quelli che come Giampaolo Silvestri hanno creato questa possibilità normativa. Intanto per noi continuate su Radio 24, appuntamento alle 8:20 domani mattina con me, Alessandro Mia, attenti noi due.